dalle albe a quei tramonti che invitano a dormire. Soltiamo le pianure col palmo delle mani, giriamo come un'onda tra fiumi ed alberi. Prati silenziosi che tornano a fiorire, è tutto quello che si muove e ti muovi pure tu. E s'alza il vento, ora, ora, lo stesso vento, ora, che ha ripreso a soffiare e copre il nostro respiro. Chiudiamo i nostri occhi, il vento tra le ortiche ci spettina i capelli, passa via così. Schiudiamo i nostri pugni a raggi tiepidi e fiori colorati profumano di pace, e accanto a te sono felice, anche se solo un attimo. Ma si alza il vento, ora, si alza il vento, ora, e noi restiamo a guardare, e tutto intorno è ingiallito, e giuro l'ultimo sbaglio che mi prendo in giro. Noi per le strade del vento correremo liberi, noi per le strade del vento non dovremo fuggire più, e non restiamo a guardare senza parole un fremito, e non restiamo a morire senza risposta un gemito, e tra le stelle a mare cosa è il futuro, che cosa è il futuro. Sogni non servono parole, guardiamo i nostri figli che corrono leggeri, non cercano risposte e cieli limpidi, ma quando cessa il fuoco ritornano a giocare. Non mi importa di morire, giuro non mi importa più, se solo il vento ora, lo stesso vento, ora, che ha ripreso a soffiare, porta se il loro destino, dove il cielo è più alto, e tutto il resto vivo.